respiro, in ogni mio sospiro, mi stupisco degli unici momenti di te. Negli occhi che si chiudo, nel cerchio che non chiudo, appare la vita che vorrei. Sul muro che ho davanti a me, scendono a gocce i colori dei brividi miei. Tu non mi appartieni, tu non sei mia, tu qualunque cosa sia, non sei mia. La voglia che mi prende ogni volta che ti penso, credo ci meritiamo un'altra vita. Nell'aria che non sazia è forte la tua essenza, tutto cade, perdo ogni speranza. L'istante che concedo a noi, difendo la scelta di non volerti più qui. L'aria non basta mai, tu non sei mia, tu qualunque cosa. Ti cerco, ti chiamo, entrar nei tuoi pensieri e chiarire che ti cerco, ti chiamo per dirti che ti amo. L'aria non basterà mai perché tu qualunque cosa sia, non sei mia. Qualunque cosa sia, non sei mia.